Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Ogni domenica alle 12 su Controradio e nel quinto elemento su controradio.it. Contatti restiamoanimali@controradio.it. Buongiorno, è domenica 8 giugno 2014, è la 185esima puntata di Restiamo Animali, la trasmissione per vivere, pensare e agire cruelty free. La redazione di Restiamo Animali è composta da Camilla Lattanzi, Valentina Reggioli, Roberta Marino, Gabriele Palloni, Francesca De Matteis e Lorenzo Guadagnucci. La parte tecnica e i montaggi sono a cura della nostra nuova preziosissima risorsa Ale Milano. Ma vediamo che cosa ci propone la scaletta di oggi per la rubrica Resistiamo Animali, dedicata alle fughe e alle ribellioni dei nostri fratelli animali. Andiamo ad Erba, nel Comasco, dove vi racconteremo la fuga di Pippo, un asino, categoria animale deputata solitamente ai lavori più duri e umili. Per la rubrica di attualità Animal House passeremo poi per Bologna e vi proporremo le voci da un presidio di protesta, che in questo caso è dedicato alla condizione dei cani e in particolare dei cani dei cacciatori, certamente non i più fortunati. Dal migliore amico dell'uomo passiamo ad occuparci di animali selvatici. Il centro LIPU di recupero per animali selvatici di Vicchio chiuderà. La provincia di Firenze ha formalizzato il recesso al suo già scarno sostegno. È una notizia molto triste e che indigna, perché gli indifesi tra i più indifesi resteranno senza questo ambulatorio, senza questo ricovero che accoglie centinaia e centinaia di persone preoccupate per avere investito un riccio o per averlo trovato investito o per aver raccolto un piccolo storno caduto dal nido o per avere tolto un rondone dalle fauci di un gatto. La rubrica di cucina, il pasto gentile, grazie al nostro Gabriele Palloni, il vegan chef a domicilio, diventa una rubrica di fantascienza. Possono esistere corsi di cucina per chi non mangia che insalata? E si può essere così entusiasti di quello che si è imparato a cucinare? Tutto molto poco verosimile. Ascoltate per credere o per continuare a dubitare. Lorenzo Guadagnucci leggerà per noi i giornali della settimana in chiave animalista e antispecista, nella rassegna stampa Tigri di Carta. La notizia è che alla Deutsche Bank un indiano jainista diventa co-amministratore delegato. Per commentare questo curiosissimo contrasto, torna la rubrica di filosofia Sostiene Vallauri. Infine, presenteremo il nostro prossimo apericena. Quindi save the date, segnatevi la data e tenetevi liberi e libere per mercoledì 11 giugno sera. Visti da vicino. Non mangio mai qualcuno che conosco. Forte, resistente, agile, dolce e testardo. Sono senza dubbio alcune delle caratteristiche distintive di Ciuchino, il simpatico altruista e un po' tontolone asino del cartone animato Shrek, o il dolce Baltasar, il fin capolavoro di Robert Bresson. E come non ricordare la delicatezza e il senso di protezione trasmessi dal bue dell'asinello del presepe cristiano, e la pacatezza e la pazienza dell'asino usato nella pet therapy. Simbolo per eccellenza del lavoro, della fatica e dello sfruttamento, l'asino è un animale domesticato da millenni, utilizzato dall'uomo come animale da lavoro, come mezzo di trasporto per cibo, merci e persone. Animale meno costoso rispetto al cavallo, si legge nella descrizione della pagina di Wikipedia dedicata al mammifero, perché si accontentava di poco dal punto di vista alimentare, ragione per cui i contadini lo preferivano al cavallo. Dell'asino si mangia la carne e se ne beve anche il latte. Questo animale, sfruttato in tutti i modi possibili e immaginabili, è il protagonista dell'ennesimo atto di ribellione e che abbiamo deciso di raccontare oggi nella rubrica di Resistiamo Animali. Una decina di giorni fa, nel Comasco, ad Erba precisamente, un asino è fuggito da una stalla e ha creato, secondo le cronache locali, non poco scompiglio per le vie del paese. Pippo, questo è il nome del fuggitivo, ha vagato per tutta la sera nelle strade non troppo lontano dalla stalla, noncurante delle auto che transitavano e che, trovandoselo improvvisamente davanti al cofano, hanno rischiato in più occasioni di travolgerlo. In molti hanno tentato di avvicinare Pippo per evitare che potesse generare panico e pericolo tra gli automobilisti, ma l'asinello proprio non ne voleva sapere di farsi avvicinare da nessuno, tantomeno di farsi acciuffare. Forse si stava godendo finalmente un momento di libertà, forse respirava nuovi odori e scopriva nuovi tatti. Era molto agitato e mordeva tutti coloro che si avvicinavano. Ma come ormai siamo abituati a raccontare, anche la storia di Pippo finisce con il consueto finale da copione reale e non cinematografico. L'intervento dei carabinieri, unitamente a quello del proprietario, l'unico in grado di riavvicinarlo a sé, ha consentito il rientro dell'asino nella sua stalla. Quasi per onorare un anniversario, l'evasione di Pippo dalla sua stalla di erba avviene proprio pochi giorni dopo l'8 maggio, data stabilita a livello internazionale come giornata mondiale dell'asino. Questa ricorrenza cade, non a caso, ad una settimana dalla festa dei lavoratori del 1 maggio, proprio per ricordare che la figura di asini e muli, da tempi immemori, è l'icona del lavoro, della fatica e dello sfruttamento. La concomitanza delle due date suggerisce però anche altro, e cioè l'intima connessione tra sfruttamento umano e quello animale, senza dimenticare che è proprio a partire dall'addomesticamento degli animali e dal loro diventare la prima forma del capitale che si amplificherà poi in maniera esponenziale l'oppressione nostra e loro, le disuguaglianze sociali, la devastazione ambientale, così come i conflitti e le guerre. Al dominio e allo sfruttamento degli animali si affiancherà infatti quella sugli schiavi, sui neri, sulle donne, sulla classe lavoratrice, sui poveri. Ma mentre per queste categorie umane un'azione morale collettiva di emancipazione e di solidarietà è stata intrapresa, una prassi solidale con gli animali viene da sempre impedita. Se infatti l'ingiustizia verso gli animali diviene in un dato momento troppo evidente e fastidiosa per le coscienze, le istituzioni speciste si affrettano immediatamente a rimettere le cose a posto, a ripristinare l'ordine e a non permettere che l'esercizio del dubbio ostacoli il sacrificio degli animali. Ogni singolo attacco, segno di fuga o di rivolta da parte di un individuo animale nei confronti di un umano viene considerato una minaccia, il che giustifica a sua volta l'intervento totalitario e violento delle istituzioni sociali per poter negare ogni solidarietà e quindi per impedire che gli animali possano aspirare alla giustizia. Ma gli animali sono a tutti gli effetti titolari di quel diritto alla resistenza che la storia della civiltà ha sviluppato come diritto politico, proprio perché vengono inclusi nella società umana e sottostanno ad infinite costrizioni esercitate da un dominio sicuramente illegittimo. E se è un fatto storico che le azioni di resistenza possano provenire da chi subisce l'ingiustizia, lo stesso vale anche per chi solidarizza con le vittime, in una sorta di battaglia condivisa e di solidarietà combattente. Come non lottare allora insieme a loro e provare solidarietà per ogni asino, per ogni mulo, a partire da tutti quelli che da secoli, in ogni guerra, fino a quelle di oggi ancora in corso in diverse parti del mondo, incarnano eternamente la parte del bersaglio facile, dello strumento bellico e della vittima totale? Come non ricordare il bellissimo racconto di Vassili Grossman, che racconta di un altro giovane mulo, di nome Giù, arruolato in un reggimento d'artiglieria in Sicilia allo scopo della Seconda Guerra Mondiale. La storia di Giù inizia con queste parole. La gente si stupirebbe molto se sapesse quante cose notò il mulo il giorno in cui la guerra cominciò ad est. La radio sempre accesa, la gente nella strada, le porte spalancate della scuderia, le bandiere sopra la caserma, l'odore del vino in bocca a gente che di vino non aveva mai puzzato, le mani del contadino che tremavano quando lo portò fuori dalla stalla e gli infilò l'imbraca. La storia di Giù prosegue, tra frustate, orrori e fatica, dalla Sicilia all'Abissinia, fino ad arrivare in Russia, dove, per usare sempre le parole di Grossman, lenti e inesorabili, l'inverno e la guerra stavano schiacciando Giù, e all'indifferenza sconfinata che lo stava sommergendo e si preparava ad annientarlo, Giù oppose la propria indifferenza, altrettanto infinita. Ma infine qualcosa accade. Accanto a Giù, per tirare il carro, viene messa una cavalla, anch'essa triste, ostile ed annientata. Il racconto termina con queste parole, davvero difficili da dimenticare. E allora Giù sbirciò la cavalla che gli correva accanto, e in quello stesso momento la cavalla guardò verso di lui, e i suoi occhi non erano più così cattivi. E senza neanche sapere perché, Giù fece tendere le tirelle. Le ossa della sua cassa toracica avvertirono il peso e la pressione, così che l'imbraca della cavalla si allentò e fu più semplice per lei, da quel momento, tirare il carro. Avanzarono così, a lungo. Poi la cavalla nitrì, Fu un suono lieve, così lieve che non lo sentirono né il mulattiere né la pianura tutto intorno. Era così lieve perché doveva sentirlo solo il mulo al suo fianco. E allora il fiato caldo di giù si mescolò a quello di lei. In quel tepore buono, ciò che si era stupito si risvegliò, ciò che era morto da tempo riprese vita. Giù si ricordò della dolcezza del latte materno e del primo filo d'erba che aveva assaggiato, della pietra rossa e crudele delle strade di montagna in Abissinia, del caldo torrido e delle notti di luna negli aranceti della Sicilia e della fatica enorme, tremenda, che pareva dovesse ucciderlo col suo fardello di indifferenza e che invece non c'era riuscita. Uno strano incanto si era prodotto in quei due esseri fiduciosi e teneri che stavano l'una accanto all'altra nella pianura spazzata dalla guerra sotto un cielo gelido e invernale. Un mulattiere, vedendoli, rise, schernendoli con una volgarità, ma un altro disse: «Guarda meglio, stanno piangendo quei due». E sì, quei due stavano proprio piangendo. Abbiamo visto come due asini, Pippo e Giù, un asino reale, un asino letterario, il primo un ribelle, il secondo più rassegnato, nella loro diversità di carattere e di storia di vita abbiano in comune la condizione di prigionieri e schiavi e possano farci riflettere su quello che riteniamo sensato e giusto, prima di tutto per loro, ma poi naturalmente anche per noi, che di loro possiamo essere o aguzzini o liberatori. E in qualsiasi dei due casi, in modo più o meno consapevole, siamo legati indissolubilmente al loro destino. Nella prossima rubrica Animal House entreremo nell'attualità e parleremo di animali che teoricamente, ma appunto solo teoricamente, rispetto agli asini, dovrebbero godere di qualche privilegio in più abitando le nostre case ed essendo ritenuti animali da compagnia o da affezione, tra molte virgolette. Animal House. Notizie, interviste, attualità. La regione Emilia-Romagna fa ancora discutere per le misure di custodia privata dei cani. Ricorderete tutti che dalla regione Emilia-Romagna era stata annunciata la legge più civile d'Italia, la prima legge regionale che avrebbe proibito di tenere i cani alla catena, grazie allo stoico digiuno di Davide Battistini dell'inizio 2013. Ma nell'iter attuativo della legge c'erano stati dei problemi, segnalati da Battistini stesso, fino alla recente notizia che ha fatto scandalo. Nei giorni scorsi, infatti, è stato licenziato dalla Commissione regionale incaricata un testo di legge che prevede per la custodia privata dei cani misure di detenzione molto molto piccole. Si parla di poco più di 2 metri per 2 anche per cani di 30 kg. Sergio Marchese, attivista di Essere Animali, era presente al presidio e ha raccolto alcune voci, diventando con nostra felicità e sorpresa il nostro corrispondente dall'Emilia Romagna. Siamo qui a Bologna, in centro Bologna, sotto le due torri, al presidio sit-in organizzato dall'Associazione Essere Animali. Sono qui con Simone Montuschi, portavoce dell'associazione. Qual è la finalità del presidio? Oggi protestiamo qui in piazza Bologna, davanti alle due torri, contro la regione Emilia-Romagna, che recentemente e quasi sicuramente sta per approvare un regolamento che si chiama Regolamento per la custodia dei cani anche da parte di privati e che fissa le famose dimensioni dei recinti, che sono dimensioni che questo regolamento prevede in maniera veramente vergognosa, ovvero, per semplificare, la regione vuole rinchiudere a vita cani anche di grande taglia, pensiamo anche a cani di 30 kg, in recinti di dimensioni piccolissime, si parla di metri 2,2 per lato. Questo regolamento è veramente un regalo, il solito regalo alle lobby venatorie, alle attività dei cacciatori. Questo regolamento è pieno di paradossi. Il primo è quello che vi siano dimensioni migliori per i cani dei canili rispetto a quelli dei privati. I cani dei canili possono avere dei recinti di minimo di 9 metri quadri, mentre per i privati parliamo di solamente 5 metri quadri, quindi quasi la metà. Un altro paradosso di questo regolamento parte appunto dall'abolizione della catena in Emilia-Romagna. Ora, essendo vietata la catena per i cani, c'è il rischio concreto che certi cani vengano tolti dalla catena, dove comunque avevano una sorta di area di sgambamento, diciamo, anche con la possibilità di carrucole, e vengano invece inseriti in recinti di dimensioni molto più piccole. Lilia Casali, attivista di Bologna, che ha condotto uno sciopero della fame ammirevole. Vorrei sapere da lei se ha speranza che qualcosa possa cambiare. È inaccettabile, cani fino a 30 kg in un quadratino di 2,20 m per 2,20 m, comprendenti anche la cuccia. Quindi praticamente uno spazio che è equivalente agli stabulari di vivisezione, anzi anche meno. Noi di Animal Liberation e anche altre associazioni animaliste non speciste, la LAV, l'OIP, la Lega per la Difesa del Cane, il Cruelty Free, abbiamo inviato una diffida a Vasco Errani, presidente della regione Emilia-Romagna, minacciando in caso che la giunta sottoscriva questo testo e lo emani come delibera, di denunciare per maltrattamento di animali e per istigazione a commettere reati. Sì, perché misure dove un cane non possa compiere nemmeno alcuni movimenti di locomozione tipici della specie e dove un cane può solo rigirarsi su se stesso è una condizione che comporta una sofferenza psicofisica con danni gravi e irreparabili. Per cui Vasco Errani, l'assessore Lusenti, che ha mentito scrivendo che era passato un testo all'unanimità mentre invece c'erano state delle astensioni di diversi consiglieri, il dottor Squintani dei servizi veterinari regionali, che ha mentito in commissione presentando un testo che nessuno aveva visto come testo condiviso con le associazioni, questi funzionari devono essere rottamati, devono andare a casa, devono andare a zappare, perché percepiscono uno stipendio per lavorare contro gli interessi della collettività. Davide Battistini, l'attivista che è stato il primo a dare visibilità a questa campagna per i diritti dei cani con due scioperi della fame, quali sono le sue sensazioni e le sue idee rispetto a quello che sta accadendo? Abbiamo ottenuto quasi 20.000 firme, abbiamo ottenuto una legge che, seppure in gran parte sbagliata, è comunque un aumento di civiltà, purtroppo non è quello che ci aspettavamo. Comunque abbiamo messo in discussione un simbolo di schiavitù che è la catena, nessun essere vivente deve stare legato a una catena. Abbiamo creato un precedente che l'Abruzzo ha copiato 9 mesi dopo l'Emilia Romagna, il Veneto vuole fare anche lei una legge uguale alla nostra. Quindi io non sto dicendo che non abbiamo ottenuto nulla, io sto dicendo che se avessimo saputo far politica in modo professionale, se noi animalisti diamo valore alla politica, perché la politica ha valore, sono i politici che non hanno valore, ma la politica ha valore, se noi comprendessimo tutto questo otterremmo molto di più di quello che abbiamo comunque ottenuto. Quindi dobbiamo essere sicuramente ottimisti, non mollare e continuare a combattere. Questa battaglia l'abbiamo in parte persa, in parte vinta. Secondo me avremmo potuto portare a casa molti più risultati. Tutto qui. Ringrazio ancora Davide e chiudo così le interviste da Bologna. Restiamo animali da Bologna. Saluta. Mercoledì 11 giugno 2014 alle ore 20, nono incontro del ciclo Apericena sulla questione animale, organizzato come sempre dalla redazione della trasmissione Restiamo Animali e dalla Casa del Popolo di Settignano. Ci sarà la solita cena cruelty free, squisita, e un dibattito che stavolta si intitola Gli altri animali sono animalisti. Infatti presenteremo il blog Resistenza Animale, un blog che stiamo frequentando da alcune settimane perché curiamo assieme alla sua redazione la rubrica Resistiamo Animali. Il blog Resistenza Animale ci racconta innumerevoli storie di fughe e ribellioni di animali reclusi in ogni parte del mondo. Scopriamo attraverso questo blog che anche gli altri animali hanno una ferma volontà di liberazione e che lottano disperatamente come possono per la loro libertà. Ospiteremo Luigia Marturano e Marco Reggio della redazione del blog Resistenza Animale, sono le voci che nelle scorse settimane la domenica hanno animato la rubrica Resistiamo Animali. Il costo della cena più dibattito, bevuta inclusa, è di 12 euro. Per prenotare ci sono due modi, un'email all'indirizzo restiamoanimali@gmail.com oppure un sms al 347 671 7132. Tutte le info nel nostro blog restiamoanimali.it. Torniamo a parlare del centro di recupero rapaci del Mugello, affiliato alla LIPU. Il centro di Vicchio è molto noto nel mondo animalista per lo straordinario lavoro compiuto nell'ultimo ventennio per recuperare la fauna selvatica, soprattutto volatili, e reimmetterla in natura. Un servizio che si è esteso anche alla città di Firenze con le ben note staffette per portare soprattutto uccelli caduti dai nidi nella struttura di Vicchio. Il centro rapaci sta per chiudere, rischia di chiudere, perché i volontari non riescono più a sostenerlo sotto il profilo finanziario ed hanno presentato un progetto per immaginare una struttura più forte con una persona occupata costantemente a garantire una continuità che finora è stata possibile grazie a uno straordinario lavoro dei volontari. Il centro di Vicchio ha goduto di un sostegno finanziario da parte della provincia, un sostegno che però è stato annunciato verrà d'ora innanzi a mancare. L'atto, che potrebbe essere quello finale in un documento dell'assessorato all'ambiente della provincia, in risposta a un'interrogazione dei consiglieri provinciali Andrea Calò e Lorenzo Verdi. In questo documento l'assessore Renzo Crescioli ricostruisce la vicenda, quindi il compito che la legge attribuisce alla provincia sul recupero degli animali soccorsi e la loro successiva liberazione con il supporto del personale sanitario veterinario, e il fatto che negli ultimi anni questo servizio è stato di fatto garantito prevalentemente dal centro di Vicchio, senza avere però una copertura istituzionale compiuta. In questo testo l'assessore scrive che circa 3 anni fa si pensò di coinvolgere il centro recupero rapaci di Vicchio come supporto esterno al progetto in preparazione con la ASL 10. Si intende in questo caso il progetto di costituire una struttura ad hoc per il servizio di soccorso e recupero degli animali selvatici. Tale rapporto, scrive l'assessore, però non si è mai formalizzato in modo ufficiale con un rapporto di convenzione, in quanto un centro per il soccorso della fauna, per essere in grado di operare dal punto di vista istituzionale, dovrebbe disporre, dice l'assessore, di operatori specializzati in materia e non semplici volontari, seppur forti di motivazione e dedizione, e di condizioni strutturali che nessuno dall'IPO nazionale o dal centro di Vicchio è dichiarato possedere, che garantiscano il rispetto delle norme igienico-sanitarie ed edilizie. In questa affermazione ovviamente c'è una chiusura del cerchio, perché il progetto della LIPU andava proprio nella direzione di strutturare meglio e secondo tutti i canoni il centro di recupero, che finora si è avvalso davvero della straordinaria dedizione dei volontari e dei quali è difficile immaginare si possa fare a meno. Chi abbia portato un uccellino recuperato in giardino, per strada, al centro di Vicchio sa bene come la loro salvezza sia affidata a questi volontari che si accollano il compito di nutrire queste creature anche a distanza di un'ora, coprendo anche le ore notturne, portandosi gli animali al lavoro e così via. Niente che possa essere fatto da una struttura pubblica, da veterinari convenzionati con un ente pubblico. La provincia peraltro precisa in questo documento di essere ormai in scadenza, con la fine di giugno ci sarà la decadenza della struttura provinciale, in quanto tale ancora non c'è chiarezza su che cosa succederà per i compiti finora attribuiti a questo ente, che si è voluto riformare in maniera piuttosto frettolosa. Il centro di Vicchio però deve essere salvato e la storia quindi proseguirà e continueremo a seguirla. Mercoledì 11 giugno 2014 alle ore 20, nono incontro del ciclo Apericena sulla questione animale, organizzato come sempre dalla redazione della trasmissione Restiamo Animali e dalla Casa del Popolo di Settignano. Ci sarà la solita cena cruelty free, squisita, e un dibattito che stavolta si intitola «Gli altri animali sono animalisti». Infatti presenteremo il blog Resistenza Animale, un blog che stiamo frequentando da alcune settimane perché curiamo assieme alla sua redazione la rubrica Resistiamo Animali. Il blog Resistenza Animale ci racconta innumerevoli storie di fughe e ribellioni di animali reclusi in ogni parte del mondo. Scopriamo attraverso questo blog che anche gli altri animali hanno una ferma volontà di liberazione e che lottano disperatamente come possono per la loro libertà. Ospiteremo Luigi Marturano e Marco Reggio della redazione del blog Resistenza Animale, sono le voci che nelle scorse settimane, la domenica, hanno animato la rubrica Resistiamo Animali. Il costo della cena più dibattito, bevuta inclusa, è di 12 euro. Per prenotare ci sono due modi: un'email all'indirizzo restiamoanimali@gmail.com oppure un sms al 347-671-7132. Tutte le info nel nostro blog restiamoanimali.it. Il pasto gentile è un frigorifero senza crudeltà. Questa puntata del Pasto Gentile si svolgerà in esterna e con ospiti. Niente ricetta, quindi, ma un'intervista ad alcuni dei partecipanti al corso di cucina vegan che ho avuto il piacere di tenere presso l'Istituto Professionale Alberghiero Buontalenti attraverso 5 lezioni. Chiederemo perché hanno deciso di partecipare proprio al corso di cucina vegan, quando la scuola ha offerto differenti possibilità. E infine, che cosa li ha colpiti di più? Sono Gianfranco, solo vegetariano da una sedicina d'anni. Mi è piaciuto l'idea perché assaggiando piatti vegani non mi è mai riuscito a capire come facevano a farli veramente così buoni. Ciao, io sono Lisa, sono diventata vegana quando è cominciato questo corso, quindi Gabriele ha fatto il miracolo, sono venuta per curiosità e mi sono tuffata a capofitto in questa nuova avventura, diciamo. L'ho fatto fondamentalmente per salute. Ciao, io sono Ilaria, sono vegan da quasi 2 anni e ho scelto di fare questo corso perché volevo approfondire le mie conoscenze e poi conosco come cucina Gabriele, quindi era già una certezza in partenza. È stato veramente un corso molto interessante, mi ha colpito tantissimo la serata sui finger food e replicheremo assolutamente. Sono Franca, io sono vegana già da 2 anni, già sperimentavo la cucina vegana da un po', però volevo approfondire un po' meglio anche come si cucinavano determinate cose. Sono parecchio interessata alla pasticceria e stasera è stata l'ultima serata di pasticceria, è stata meravigliosa. Sono Laura, sono vegana da 1 anno e 5 mesi e ho scelto di fare questo corso per imparare a cucinare, diciamo, meglio, perché già cucino un po'. Spero di, insomma, se ci saranno altri corsi, di rifarli. Sono Rosalinda, io sono vegetariana, vegana quasi, e ho fatto questo corso perché volevo imparare in modo più professionale a fare dei mangiari, soprattutto perché è un centro di yoga e quindi voglio abbinare lo yoga a una buona cucina. Sono contentissima perché Gabriele è bravissimo, ha unito la professionalità che a volte manca nei corsi che uno fa di cucina naturale, quindi lo ringrazio tanto e spero di fare altri corsi. Ciao, sono Martina e io sono vegetariana da 10 anni, però sono incuriosita dalla cucina vegana e quindi quando ho letto che c'era il corso ho provato a sperimentare questa cosa e sono rimasta veramente entusiasta, perché oltre alla bontà, diciamo, dei cibi che si sono cucinati, mi è piaciuto soprattutto il fatto che abbiamo imparato a fare tutto dall'inizio, cioè cose che non ti aspetteresti mai, cioè con la panna da cucina o qualsiasi altro ingrediente che solitamente si va a comprare. Invece Gabriele ha puntato su questa fai da te che è fondamentale soprattutto anche per le nostre scelte. Ciao, sono Paola, sono vegana da circa 4 anni, ho intrapreso questo corso perché mi piace cucinare e volevo approfondire alcune tappe, diciamo, che trovavo difficoltose, che possono essere il tofu, l'autoproduzione del latte di soia. Invece poi ho notato che era molto più facile di quello che si pensasse, grazie anche all'aiuto di Gabriele del corso, che è stato davvero molto interessante. Ciao, sono Giacomo, ho scelto di fare questo corso perché mi interessava approfondire la cucina vegana, fare delle cose un po' più elaborate. Se uno non ha un'idea di come cucinare vegano, insomma, è molto utile. In 5 lezioni, diciamo che abbiamo visto parecchie cose. Ciao, sono Lucrezia, sono vegana da 1 anno, prima ero vegetariana. Sono venuta qui perché amo cucinare e quindi speravo di imparare cose nuove, cosa che effettivamente è successa, perché magari, cioè, visto che io comunque cucino praticamente tutti i giorni da quando ho cambiato alimentazione rispetto alla mia famiglia, alcune cose le sapevo già fare, altre sono state nuove, altre magari le facevo in modo diverso, quindi è stato comunque anche interessante vedere, avere altre versioni delle cose che io facevo già e quindi compararle, metterle a confronto e scoprire che erano migliori. Credo di aver imparato comunque molto da questo corso, sono divertita, ho conosciuto persone molto simpatiche. Ora la domanda velocissima, bruciapelo, la cosa che vi è piaciuta di più del corso? Muscolo di grano. Una cosa che mi è piaciuta di più è la colomba di Pasqua, la cosa che contiene più uova e che invece è venuta buonissima. Crepe alla fiorentina fatte con la farina di ceci, quindi anche come fare gli impasti con ceci, farina, insomma. A me gli spaghetti alla carbonara, che avevano un sapore praticamente, cioè, molto simile. A me è piaciuta in particolare la versione della mozzarella di Gabriele, che a me invece non mi è mai venuta come dicevo io, e quindi gliela copierò e diventerà anche la mia versione. Devo citare i gruppi che si sono formati, e per me la socializzazione e il rapporto umano è importantissimo. Il fatto che abbiamo utilizzato tutto quello che c'era da utilizzare senza buttare via niente. A me è piaciuto veramente tutto, se devo citare un piatto, i boulet di ceci, che sono state veramente una cosa eccezionale, una bella scoperta. Quello che mi è piaciuto di più è l'abbinamento di alcuni alimenti ai quali non avevo mai pensato, come per esempio mettere l'acqua al posto del latte oppure utilizzare la farina di ceci per rendere un pochino più morbido l'impasto. Concludiamo con un saluto di non tutta la classe, una parte della classe, quella che ha resistito anche all'intervista dopo il corso. Un saluto tutti insieme. Vegana! Fra brutti scherzi, la cucina vegana. Sostiene Vallauri. Con il professor Luigi Lombardi Vallauri oggi torniamo ad affrontare il tema della non violenza a partire da un dato di cronaca. La notizia è quella della nomina come co-amministratore delegato di Deutsche Bank di Anshu Jain, un personaggio cinquantenne indiano jainista che si richiama quindi alla tradizione più non violenta forse che conosciamo nel mondo orientale. È un binomio che colpisce la non violenza nella sua forma più pura e l'essere un esponente di altissimo rango di una grande organizzazione finanziaria, e sappiamo come la finanza stia condizionando il mondo. Professor Vallauri, cosa le fa pensare questo contrasto? Beh, io in questa sede mi pongo il problema dal punto di vista dell'animalismo, senza generalizzare troppo, però appartengo a quelli che ritengono che l'animalismo debba essere un sottoinsieme della non violenza. E certamente il jainismo, che è nato da Mahavira, un contemporaneo di Buddha nel VI secolo, è il massimo culturale della non violenza. Se stai per schiacciarti un pidocchio sulla testa ti dicono no, dammelo che lo nutro io, non bisogna camminare durante le piogge per non schiacciare esserini, si portano mascherine per non uccidere i moscerini, ci sono dei villaggi Bishnoi ispirati al jainismo, dove donne sono morte perché si interponevano tra il boscaiolo e l'albero, quindi estendono la non violenza per quanto possibile anche alle piante. In questo quadro è paradossale la celebrazione, anche con piccoli monumenti funerari, dei jainisti che a Shravana Belgola hanno compiuto il suicidio santo. Da un lato non violenza assoluta e dall'altro invito alla morte, inviting death, quando con l'aiuto dei compagni si capisce che è giunto l'ultimo tempo e che questo tempo va usato in modo sapienziale. Contro questo sfondo si staglia la figura di questo Anshu Jain, che dal 2012 è co-presidente della Deutsche Bank, quella delle nere torri gemelle di Francoforte. Quando si fanno delle torri gemelle bisogna stare attenti, questo è un inciso. Ed egli risulta essere appunto un rigoroso vegetariano, quindi suppongo vegano, che rifiuta ogni forma di violenza e che adesso però in maggio ha lanciato un aumento di capitale di 8 miliardi di euro cooptando un super sceicco del Qatar. E questo ci pone qualche problema. Per esempio, sempre in prospettiva solo animalista, mi chiedo se Jain controlla la non violenza degli investimenti che la banca fa. Per esempio, se non ci sono soldi che vanno all'industria tedesca del maiale, la Germania, che ha la legge animalista più progredita del mondo, macella ogni anno 58 milioni 700 mila maiali, che è la massima percentuale pro capite di ammazzamento maiali nel mondo. Chi lo sa se Jain se ne occupa di questo e di altri aspetti. Comunque, a parte l'animalismo, si può pensare che ci sia non violenza anche proprio nell'attività finanziaria come tale. Noi col gruppo di meditazione pensiamo di andare nel Gujarat, dove c'è un'università, la Vidyapith University, fondata da Gandhi nel 1920, e lì ci sono corsi sulla non violenza nell'economia e nella finanza, cose che trovo molto interessanti. E allora è un problema che ci riguarda tutti, non bisogna mai guardare solo agli altri che sono cattivi, ma guardare un po' anche verso se stessi. Beh, non solo l'animalista cerca di non mangiare animali, ma dovrebbe anche cercare di non finanziare quelli che uccidono gli animali. Noi abbiamo la responsabilità, in un certo senso, di sapere dove finiscono i nostri risparmi, ma è chiaro che è difficilissimo saperlo. In generale, io penso che resta primario l'animalismo del consumo critico individuale, quello al supermercato, diciamo, però complementarmente io credo che sia importante anche un contrasto politico ai poteri forti, fondato su un'analisi strutturale del sistema industria, commercio, finanza e delle sue connessioni col sistema politico, cioè governativo e legislativo. Credo che ci vogliano tutti e due i livelli di un animalismo consapevole. Tigri di carta, rassegna stampa altro animalista. Partiamo con una notizia che dovrebbe far discutere a lungo e che invece temiamo sarà accantonata rapidamente per la quantità di problemi che creerebbe non solo alla vita quotidiana delle persone, ma anche al sistema produttivo se fosse presa con la dovuta attenzione. La notizia è il rapporto del nucleo antisofisticazioni dell'Arma dei Carabinieri. Ne riferisce il Corriere della Sera di martedì 3 giugno con una pagina intitolata così: bistecche colorate e pesce con l'additivo. I nuclei antisofisticazione dell'Arma, dai supermarket ai ristoranti, un alimento su tre non è conforme alle leggi. Nel corpo dell'articolo si spiegano alcuni punti critici. Si dice che su 90.000 controlli fatti fra 2012 e 2014, circa 31.000 esercenti non hanno superato i criteri previsti dalle normative sulla sicurezza alimentare. Su circa 12.000 allevamenti di ovini e bovini controllati, 4.000, quindi un terzo, sono risultati fuori legge. I pastifici non in regola sono stati 6.000 su 17.000. E la tendenza è confermata anche per i primi 5 mesi del 2014. Leggiamo un passaggio che riguarda gli allevamenti. Si dice che a Parma i carabinieri hanno sequestrato 2.300 prosciutti ottenuti da animali alimentati con rifiuti. A Palermo sono stati denunciati 23 macellai che vendevano carne trattata con ione solfito, che la faceva diventare rossa e sanguinolenta. In 4 regioni, Puglia, Marche, Emilia-Romagna e Veneto, sono stati sequestrati centinaia di litri di cafodos e tonnellate di pesce, spada e tonni. Nel dossier si sottolinea come il cafodos è un additivo che viene mescolato con il ghiaccio e dopo qualche secondo diventa invisibile alle analisi di laboratorio. Ha un effetto miracoloso, consente di dare freschezza apparente al prodotto, ma all'interno generalmente è già marcio. Tutto questo è emerso da indagini effettuate in supermercati della grande distribuzione e ristoranti, quindi attenzione a quello che acquistate, attenzione a quello che mangiate. Non sto a dire qual è il nostro consiglio perché è fin troppo chiaro dal tenore dei nostri servizi. Dal Corriere una interessante notizia riguardante i cani e il Parco del Gran Sasso, lunedì 2 giugno, pagina 16, il titolo è questo: i team di cani addestrati a salvare orsi, volpi e lupi dalle polpette avvelenate. Si riferisce nel Parco del Gran Sasso del progetto che si chiama Life Pluto, e cioè la formazione di 6 nuove squadre che avranno il compito di salvare dalle polpette avvelenate volpi, gatti, orsi, ricci, lepri, scoiattoli, tassi, grifoni, aquile, cani selvatici, tutti animali che sono vittime di quei bracconieri o di quei sadici, e forse le due cose coincidono, che immettono nei prati, nei boschi, polpette avvelenate per uccidere questi animali liberi. I cani sono stati addestrati al fine di riconoscere con il portentoso olfatto di cui sono dotati queste polpette e indicarle ai loro istruttori. L'articolo spiega come fanno i 5 cani a resistere alla tentazione di mangiare una di quelle polpette. Merito dell'addestramento, che prevede per ogni ritrovamento di un boccone avvelenato un premio speciale. Un po' di tempo da passare giocando con il conduttore, un bastoncino da recuperare, una corda da dentare, tirare e così via. L'addestramento dei cani, che non è una cosa bellissima, almeno ha una sua utilità per altri animali sfortunati e in grave pericolo. Ancora di cani ammaestrati si parla sempre sul Corriere della Sera, ma del 30 maggio. Il titolo è questo: il cane che sa accendere luce e TV cambia vita alla padroncina disabile. Francesca in carrozzina. Light, addestrato da un altro bimbo malato. Il Golden Retriever, che la media lanza di Carini aveva affiancato a uno dei suoi alunni per aiutarlo. Si tratta di un progetto che prevede l'uso di alcuni cani addestrati all'uopo per sostenere la vita quotidiana di bambini con disabilità. Questo cane, si spiega, arriva anche a pigiare alla parola luce con una zampata, una pedana collegata a una lampada, ovvero ad accendere con marchingegni simili la TV e lo stereo. Nella stessa pagina due foto veramente insolite. Il titolo è Il volo del rinoceronte appeso a un elicottero della guerra in Vietnam, e si vede un rinoceronte imbracato a testa in giù, sollevato da un elicottero e che viene trasportato. La finalità è spiegata nel breve articolo: si tratta di mettere in salvo dagli attacchi dei cacciatori di frode e dai contrabbandieri pronti ad uccidere per commercio i loro corni preziosi, questi meravigliosi animali. Con questa procedura, spiega il fotografo Emma Gatland, che ha scattato in Sudafrica queste immagini, che è rispettosa del rinoceronte, si accorcia il tempo della sedazione necessaria per il trasporto. Fotografie, ricette, interviste, video satirici, approfondimenti e il podcast di questa e di tutte le precedenti puntate nel nostro blog restiamoanimali.it. Info e suggerimenti a restiamoanimali@controradio.it. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali, trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Ogni domenica alle 12 su Controradio e nel quinto elemento su controradio.it. Contatti restiamoanimali@controradio.it.